hacer lo que te hace fuerte. Si no comeres de cero, chequea que va a ver tu amistad. Sono più e voglio andare, chiamami come lo dai, già che ci sei. Caramelle, non me voglio più, le rose violine, normalmente mi tengono sveglia. Puoi provare, chiamami passione.